30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Si tratta di una correzione dei conti pubblici radicale, senza precedenti nella storia recente del Regno Unito e di qualsiasi altro paese dell'Unione. Londra affonda il bisturi nella piaga di un disavanzo che supera l'11% del PIL e lo fa con la Spending Review, ripensamento della spesa pubblica per il prossimo quadriennio, calando la scure sul welfare system, quel meccanismo di tutela pubblica che Londra stessa reinventò nella forma attuale. Ancora buonasera, benvenuti a 30 minuti in cronaca. Questa sera con noi Leonardo Maisano, corrispondente da Londra del Sole 24 ore, per parlarci dunque di tagli che appaiono davvero duri, tagli che mettono in crisi, in discussione un sistema. L'aggiustamento impone tagli per oltre 100 miliardi di sterline, 81 dei quali destinati nei prossimi 4 anni proprio al welfare system. Intanto buonasera Leonardo Maisano. Buonasera a voi. Dunque, come si taglia cosa? Dunque, innanzitutto, ecco, la correzione globale sui 4 anni per riportare il deficit strutturale in pareggio, per annullare il deficit strutturale, di 109 miliardi di sterline. Di questi 81 vengono fatti sul fronte della spesa, mentre una ventina, 25 sul fronte della tassazione, cioè delle entrate. Degli 81 sul fronte della spesa, dicevi giustamente, la parte del leone la fa il welfare state, di cui 18 miliardi saranno recuperati, appunto 18 miliardi degli 81 dal welfare, tagliando tutta quella serie di benefici, di sussidi, di indennità, che sono un'architettura molto complicata che è andata costruendosi negli anni e creando anche una trama molto, molto difficile da sciogliere. Questo, secondo il governo conservatore di David Cameron, è una zeppa allo sviluppo economico. Ecco, quando si parla di welfare system, naturalmente si considera un insieme complesso, articolato di misure. Che cos'è che rischia di essere toccato da questo appunto, da queste misure? Innanzitutto, nel welfare stesso si inserisce anche la sanità. La sanità è completamente protetta, anzi è l'unico ministero, l'unica area del governo che avrà più fondi di quelli che ha attualmente o che si prevedeva avesse. Un'altra area che viene completamente protetta è la pubblica istruzione. Per welfare system intendiamo tutta quella forma di assistenzialismo, come dicevo, di indennità legate alla disoccupazione, case, sussidi per le case popolari, agevolazioni per il riscaldamento, per esempio, che sono un'altra cosa che è diffusissima e concessa in taluni casi senza limiti di reddito. Quindi è una trama molto complicata che si basa soprattutto su un principio, quello dell'universalità. Vediamoci, non tutti godono di questi benefici, però alcuni di questi benefici vengono dati senza limiti di reddito. È il caso ad esempio degli assegni familiari, che sono stati quest'anno tagliati. Per la prima volta è stato imposto un reddito, cioè chi guadagna più di 40-50 mila sterline all'anno non avrà più diritto ad avere gli assegni familiari. Una cosa che ha suscitato polemica perché va contro appunto quella che fu la filosofia del welfare state creata da Beveridge decine di anni fa e che poi è stata sostanzialmente sempre mantenuta, vagamente riformata, ma mai toccata nella sua struttura di fondo dai governi sia laburisti che conservatori. Leonardo, una domanda da un osservatore come appunto quello di un corrispondente a Londra, per darci un'idea: il welfare britannico è generoso? Sì, molto, senz'altro molto generoso. Ci è capitato di vedere, andando in giro per le città del nord dell'Inghilterra, quelle che saranno più colpite da queste riforme, famiglie in cui padri e figli non hanno mai lavorato, per cui, come dire, nuclei familiari dove si è radicata l'abitudine a vivere senza dover lavorare. Adesso non sto dicendo che questa sia una scelta fatta con leggerezza da queste famiglie, è chiaro che è stata una condizione che ha generato una condizione di disagio sociale, di mancanza di lavoro soprattutto, che ha generato queste condizioni, però poi queste condizioni sono diventate, come dire, appunto una condizione di vita, un sistema per sopravvivere che è diventato l'abitudine, perché c'era questa trama di generosi benefit che andavano alla moglie, al marito, al figlio non appena divenuto maggiorenne o anche quando era minorenne, per alcune parti dell'assegno che viene dato anche, parte dell'assegno viene anche dato ai figli minori. London calling through the faraway towns, now war is declared and battle come down. London calling to the underworld, come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us, phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing, except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is gripping, engines stop running, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone, forget it brother, you can go it alone. London calling, to the zombies of death, quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning. Questi tagli significano inevitabilmente oppure no strumenti in meno contro la povertà, l'esclusione sociale? Leggevamo proprio un rapporto recente di poverty.org.uk che parla di 13.4 milioni di nuclei familiari che vivono nella fascia del basso reddito, che peraltro viene indicata nel Regno Unito come una soglia fissata a 115 sterline la settimana. Nel Regno Unito si ragiona a settimana, quindi si parla di 115 alla settimana. Insomma, è inevitabile che aumenti la distanza tra i ricchi e i più poveri oppure no? Questo è il tema della grande polemica seguita alla spending review. Il cancelliere è stato accusato di colpire i ceti più bassi per favorire una volta di più quelli più ricchi, quindi di allargare questo gap tra benestanti e chi è invece in condizione di povertà o di semipovertà. Non c'è dubbio che la riforma del welfare va a colpire i ceti più poveri. Il 10% della popolazione più povera del Regno Unito è colpita maggiormente, più di tutti, da questa riforma. Il 2% dei redditi più alti pagheranno marginalmente di più. Questa è la differenza. Cioè i redditi più alti dovranno contribuire di più, ovvero sono in qualche modo i portatori di quella parte di contributi che punta sulla fiscalità. Esatto, pagare di più per tutti. O appunto quella riduzione dei benefici che di cui dicevo prima, che erano universali, che andavano anche a loro, ad esempio gli assegni familiari. Quindi una maggiore fiscalità, cancellazione degli assegni familiari, un conto per le famiglie, tra virgolette, più benestanti, superiore. Ma chi in proporzione soffrirà di più è il 10%, è la fascia del cosiddetto 10% più povero del paese. Questo secondo i calcoli diffusi ieri dall'Istituto di Fiscal Studies, che è l'istituto più importante nel Regno Unito per la valutazione e l'esame di qualsiasi misura che riguardi la spesa pubblica e la tassazione. 30 minuti in cronaca. Ancora buonasera da Gigi Donelli. Questa sera dunque parliamo del Regno Unito, parliamo dei tagli alla spesa decisi dal governo che naturalmente suscitano interrogativi, è il minimo che si possa dire, proteste polemiche, ma sentiamo come in collegamento con Londra. Da Londra questa sera con noi Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore. Dunque Leonardo, eravamo al punto delle reazioni, i tagli sono decisi, le cifre impressionanti, quale la reazione nelle appunto organizzazioni sindacali e politiche nel Regno Unito? Le reazioni del sindacato sono state molto dure, ovviamente hanno considerato questi tagli tagli ideologici, non tagli dettati dalla dalla necessità. Trade Union Congress si riunirà nelle prossime 2 settimane per decidere quali forme di protesta attuare, e non si escludono ovviamente scioperi, manifestazioni, anche se in Inghilterra immaginare sviluppi, come dire, alla francese, che non si possono assolutamente escludere, resta però piuttosto difficile, perché negli anni Margaret Thatcher le condizioni per gli scioperi sono state molto irrigidite, per cui è difficile che si creino grandi fronti di protesta popolare. Ecco, cioè dicevi, scusa, questo punto è importante, le condizioni si sono irrigidite perché effettivamente emerge il pensiero, anche la sorpresa, vediamo quello che accade in Francia, un taglio di questo tipo non produce innanzitutto manifestazioni o forme visibili. Come mai sono... C'è stata qualche manifestazione di 2 o 3 mila persone nella notte dell'annuncio dei tagli, ma cose assolutamente minori. In Inghilterra il cosiddetto secondary picketing, cioè la possibilità che le fabbriche si uniscano in solidarietà l'una verso l'altra, creando forme di sciopero diffuso, sono molto difficili, cioè sono illegali in realtà. Si possono verificare ugualmente con degli escamotage, cioè una fabbrica dice io sciopero perché la mensa oggi non funziona, un'altra dice io sciopero per i tagli, eccetera. Per cui ognuna deve avere una sua agenda e un suo motivo per poter protestare, senza creare, come dire, appunto quella forma di solidarismo globale, perché questo va incontro a delle norme che sono state appunto fortemente irrigidite negli anni della lotta di Margaret Thatcher, i minatori di Margaret Thatcher. Ecco, quali saranno dunque le reazioni da parte adesso dei bisognerà sindacati? Vedere, perché gli scioperi ovviamente potranno essere anche devastanti, perché ci sarà sempre comunque il modo di poterli organizzare. Vedremo quali saranno le reazioni dei sindacati. Per ora i sindacati hanno bocciato ovviamente le misure e hanno promesso che daranno battaglia. Come? Resta da vedere. Durissima anche la reazione dei laburisti, cioè dell'opposizione, che ritiene queste misure inutili e pericolose, perché c'è un altro aspetto che va considerato, cioè queste misure che conseguenze avranno sulla possibilità di ripresa del Regno Unito. Cioè la grande scommessa, perché quella di Osborne e di Cameron è una scommessa ad altissimo rischio, è con tagli di questo genere per un paese che è sostanzialmente sostenuto sul fronte dei consumi interni più che sul fronte delle esportazioni, cioè la cui crescita è dettata dai consumi interni più che dalle esportazioni, ecco, un paese che ha questa struttura, come fa a far fronte al rischio a tagli del genere? Certo, perché come si fa a sostenere la ripresa, a cavalcare la ripresa, quando di fatto il reddito verrà ridotto a disposizione delle famiglie? Esattamente, esattamente. E allora il dubbio di molti economisti, dello stesso Istituto Fiscal Studies, è che l'Inghilterra possa scivolare di nuovo in una fase di recessione. È stato calcolato che circa queste misure potranno bruciare un 1% di crescita del PIL. Attualmente l'Inghilterra prevede di crescere l'anno prossimo circa del 2-2,5%. Sono ovviamente numeri molto approssimativi, perché poi dipende dalla congiuntura internazionale. Ecco, se l'Inghilterra entrerà in una fase recessiva nuovamente, è chiaro che tutti i numeri sui quali si basa questo calcolo saltano, e che quindi la previsione di Cameron e di Osborne di portare il paese a un deficit strutturale zero in 4 anni, cioè prima delle prossime elezioni, diventa molto molto complicata. Prego, sali, sali pure, no, non mastico l'inglese, I don't speak, so solo giusto qualche frase. È carina da morire, quanta roba porca loca, la Camilla, yes, my car, qui mi si sbraca. Ride pure se non ha capito niente, le lenticchie sul nasino un po' all'insù, i capelli un po' arruffati, senza trucco, senza inganno, sacco a pelo, scatolette, gira il mondo tutto l'anno. E poi c'ha una bronzatura che ti frega anche un bagnino, io al contrario sembro proprio un latticino. Do you smoke, vuoi sigaretta? Che ti ridi, vuoi fumare? Mi fa gola, non capisci, ma è un amore. Cosa pensi dell'Italia? Do you like, come si dice, come nome le starebbe bene Alice. Poi sorride, ride, poi sorride ancora. Penso che mi ha preso proprio in simpatia. Faccio un po' di mano morta, lascio un po' le cose a caso. L'avvicino dolcemente senza darci un grande peso. Sotto un sole da deserto, sull'asfalto arroventato, il mio viaggio è cominciato insieme a lei. Viva, viva, viva l'Inghilterra, pace, donne, amore, libertà. Viva, viva, viva l'Inghilterra, ma perché non sono nato là? Leonardo, diciamo le classi più deboli rischiano di pagare il conto salatissimo degli errori della City, e mi riferisco ovviamente ai mercati finanziari. E questo è un po' il senso, come dire, quello che dicono i sindacati, e non tanto dell'opposizione laburista, che era correa, se vogliamo usare questo termine, di tutto quanto è stato fatto negli ultimi 10 anni, essendo stati loro al governo. Ma diciamo che i sindacati indicano sempre nelle banche, nei banchieri, il motore primo, no, di questa crisi che ha sprofondato l'Inghilterra all'11-12% di deficit rispetto al PIL, è un debito pubblico in forte espansione e che va a accumularsi a un debito privato violentissimo, perché piccolo dato da aggiungere, che in Inghilterra il debito pubblico non è ai livelli italiani, al 60-70% del prodotto interno lordo, però se si aggiunge al debito privato, cioè quello delle famiglie e quello delle aziende, il debito arriva si moltiplica al 350-400% del PIL. Se noi applicassimo questi stessi criteri alla nostra economia, il debito pubblico-privato italiano non arriva al 250%. Esploderebbe, quindi i comportamenti nel Regno Unito si ispirano più a quelli americani. Assolutamente sì. Ecco, abbiamo 3 minuti e vorrei farti 2 domande ancora. Una forse più di colore e una più di sostanza. Sovrani, corte, matrimoni reali, questi tagli incidono in qualche modo sulla famiglia reale? Sì, la civil list, cioè l'assegno che lo Stato va a pagare poi alla famiglia reale, è stata congelata per l'anno prossimo e per i prossimi 2 anni. È stato ridotto del 14% l'assegno, se così si può dire, che lo Stato passa alla monarchia per il mantenimento delle residenze reali. Insomma, piccolo taglio del welfare state anche in direzione della corona e credo più importante sul fronte delle relazioni internazionali. Tagli significa naturalmente difesa, relazioni internazionali, è inutile ribadire il ruolo del Regno Unito, soprattutto nell'alleanza atlantica. Londra sarà in grado di rispettare i suoi impegni internazionali? Qui c'è un capitolo curioso, perché in realtà l'Inghilterra ha aumentato fortemente gli investimenti a favore dei paesi in via di sviluppo. Alcuni li ha tagliati, ma altri li ha aumentati fortemente. Questa è una chiave anche del suo tentativo, come dire, di riequilibrarsi anche come economia di esportazione, quindi sta cercando di ristabilire contatti con paesi che potrebbero diventare, come dire, destinatari dei propri prodotti. In questo senso la spesa inglese è stata aumentata, uno dei pochi capitoli, come dicevo, con sanità e educazione in cui la spesa è una spesa marginale, però è stata fortemente aumentata. Quella che è stata ridotta dell'8% è invece la spesa della difesa, molto meno di quanto si ipotizzava, perché si parlava del 20%, poi del 10%, alla fine è stato dell'8%. Obama si era preoccupato in questo senso. Assolutamente sì, questo riduce la proiezione inglese nel mondo, la contiene, però ricordiamoci che l'Inghilterra è sempre il quarto budget per la difesa del mondo. E non rinuncia a questo ruolo. Grazie a Leonardo Maisano, questa sera in collegamento con noi da Londra, Peter Bescapè in regia, un saluto da parte mia, un ottimo fine settimana a tutti voi.